America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Street is gearing up for the Facebook upcoming IPO filing. We take a look at what investors should be looking for in the filing and whether the valuation is justified. $100 billion is what we're expecting. Facebook in borsa. Facebook in borsa ha fatto il filing con la Security Exchange Commission, l'equivalente del nostro Consob. L'idea di organizzare il collocamento in borsa per il mese di maggio, diciamo, ma ci sono già una gran quantità di dati. Sappiamo che Facebook ha fatto un fatturato di 3 miliardi di dollari, che cercherà di raccogliere in borsa 5 miliardi di dollari, e sulla base di questa raccolta gli analisti, gli esperti ritengono che il valore di fondo della società, in base al collocamento di azioni che farà, oscillerà fra i 75 e i 100 miliardi di dollari. Naturalmente il prezzo poi lo si determinerà nel momento in cui il titolo sarà collocato sul mercato. Ma la cosa più interessante riguarda appunto la documentazione che è stata consegnata ieri. Facebook è sempre stata un'azienda permeata dalla segretezza, non hanno mai dato dati, era un'azienda privata naturalmente, quindi poteva essere assolutamente riservata. Ma questa riservatezza di Facebook strideva invece con l'assoluta nonchalance con la quale l'azienda usava i dati personali dei suoi utenti. Ecco, questo al di là della notizia importante, perché se davvero Facebook andrà sul mercato a 100 miliardi di dollari sarà il più grosso collocamento in borsa, il più grosso IPO della storia. Però ci sono altri elementi, e devo dire il New York Times è stato il più provocatorio ieri mattina, perché uscendo con un titolo appunto riferendosi al collocamento di Facebook atteso, diceva: quanto valgono i tuoi dati personali? Lo scopriremo presto. Perché? Beh, perché di fatto ci sono 800 milioni di utenti che lavorano per Facebook, sono 800 milioni di persone che usano Facebook, usando Facebook finiscono per mettere dei dati, delle lettere, dei messaggi, delle fotografie, fanno degli acquisti, fanno delle raccomandazioni di acquisti ai loro amici, e dunque il valore vero di Facebook è nell'essere una miniera d'oro di informazioni per gli esperti di marketing, per le aziende, per i produttori di qualunque cosa, perché improvvisamente si può capire se c'è un movimento tendenziale che si sviluppa di moda, di costume, di musica, alimentare, e dunque è chiaro che le aziende che possono avere accesso a questi dati, che per quel che sappiamo sono già tutti organizzati, catalogati, non possono essere resi pubblici immediatamente per questioni di privacy, però Facebook troverà il modo di farlo. Ecco, vi dicevo, questi dati a un certo punto sono il vero asset, la vera forza di Facebook. È un problema, perché sappiamo che ci sono stati problemi di privacy, sappiamo che la Federal Trade Commission è intervenuta e più volte ha chiesto a Facebook, a partire dal 2007, quando ci fu questo strumento Beacon che girava automaticamente su Facebook gli acquisti online degli utenti, oppure c'era la pubblicizzazione di scelte come like, ogni volta che un utente scriveva like, I like this, mi piace questo, mi piace quello, ecco, questa espressione di favore veniva immediatamente tradotta in una banca dati e si capiva a quante persone piaceva quella certa cosa. Dunque, grande cautela, lo strumento è straordinario, è bellissimo, vi dicevo, 800 milioni di persone lo stanno usando, ma è anche uno strumento che ha dei risvolti che possono essere inquietanti se non saranno regolati. Intanto il mercato ci crede. I'm in this race because I care about Americans. I'm not concerned about the very poor. We have a safety net there. If it needs a repair, I'll fix it. I'm not concerned about the very rich, they're doing just fine. Mitt Romney, abbiamo visto ieri come ha vinto con grandi margini la Florida, eppure avete sentito che ha fatto l'ennesima gaffe. In una intervista televisiva ieri pomeriggio ha detto: non mi preoccupo dei poveri. Oddio, lo ha messo in un contesto, ha detto: non mi preoccupo dei poveri perché hanno una loro rete di protezione, semmai se ci saranno dei buchi, beh, la riparerò. Non mi preoccupo dei ricchi perché hanno i soldi e stanno bene, mi preoccupo della grande America, della classe media americana. Ecco, il problema è che immediatamente l'intervistatrice ha subito isolato questa frase infelice di Romney e gli ha detto: ma scusi, ma lei ha detto che non si preoccupa dei poveri. Ecco, è andato viral su Twitter, ne hanno cominciato a parlare tutti, le reti televisive hanno cominciato a far vedere immagini di Mitt Romney che diceva: non mi preoccupo dei poveri. Non è la prima volta che Romney fa una, diciamo, gaffe di questo genere. Sentiamo alcune delle altre. It also means that if you don't like what they do, you can fire them. I like being able to fire people who provide services to me. Qui ha detto, a me piace licenziare la gente. And then I get speaker's fees from time to time, but not very much. Qui dice che un guadagno di circa 360 mila dollari per interventi, per conferenze, per discorsi, per lui è una bazzeccola. Certo, in effetti ne ha guadagnati 22 di milioni di dollari grazie a guadagni di capitale, però 360 mila dollari è pur sempre 6 volte il reddito medio di un americano e dunque non è certo una bazzeccola. E poi a un certo punto, in un dibattito con Perry, gli ha detto: ma io con te scommetto 10 mila dollari, come se fossero spiccioli pronti per essere spesi in tasca. You know what? You've raised that before, Rick, and you're simply wrong. It was true then. No. It's true now. Rick, I'll tell you what. $10,000? $10,000 bet? Abbiamo con noi in studio Paolo Valentino, inviato del Corriere della Sera, fino all'altro giorno in Florida a seguire la campagna elettorale. Buongiorno Paolo. Buongiorno Mario. Qui Romney continua a fare degli scivoloni. Che è problematica questa cosa secondo te per lui? Cioè, cosa significa? Beh, io credo che l'uscita di ieri, quella sui poveri appunto, riconduca a quella che viene definita la debolezza strutturale della candidatura di Romney. Mitt Romney è un candidato formidabile, ha una grande struttura, è molto disciplinato, ha una organizzazione capillare, l'unica in grado di obiettivamente di rivaleggiare con quella del presidente Obama, ma rimane un candidato erratico, cioè rimane un candidato con delle uscite piuttosto strane, quindi che di volta in volta va fuori messaggio, e questa è manna per gli avversari. E questo rischia di handicapparlo seriamente nel corso della campagna elettorale, quando il gioco si farà duro e quando soprattutto affronterà quella che tu hai definito nel tuo pezzo la bestia, cioè dire la grande organizzazione elettorale di Barack Obama. Ecco, Barack Obama ovviamente sfrutterà, posso già immaginare, gli spot televisivi quando faranno vedere, no, Mitt Romney che dice non me ne importa nulla dei poveri e Barack Obama che dice ecco, questo è l'uomo che vuole fare il presidente degli Stati Uniti. Però secondo te sarà un danno sostanziale o no? Ho visto ieri mattina Bill O'Reilly, il grande commentatore repubblicano, mi ha detto che secondo lui è al 99% fatta. Sul piano della nomination repubblicana io credo che ci sono ormai pochi dubbi. Queste munizioni che lui offre agli avversari sicuramente gli potranno fare del male in questo o quello stato, però io credo che con la Florida sia aperto un nuovo capitolo. Quello che porta la nomination di Romney, e il problema è adesso non se avrà la nomination, ma quando l'avrà, cioè dire quando totalizzerai i delegati necessari ad avere la certezza matematica di essere l'investito. Oggi 2 febbraio 2012, se la corsa presidenziale avvenisse oggi, vincerebbe Romney Obama? Io non ho dubbi, vincerebbe Obama. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ieri vi ho fatto ascoltare la favorita di Mitt Romney. Oggi, diciamo, non gli è andata bene negli ultimi tempi, quindi vi faccio ascoltare la canzone favorita di Newt Gingrich. Non che abbia avuto molta fortuna, pensate, è stato portato in tribunale perché sembra che abbia violato i diritti, i copyrights nell'uso di questa canzone, ovviamente grande canzone mitica, è la colonna sonora del film Rocky, Rocky il grande pugile, il grande sopravvissuto e dunque dei Survivor, Eye of the Tiger, l'occhio della tigre. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.